Se quel guerriero io fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me guidato. Pugnato per te ho vinto. Celeste Ida forma divina, vorrei ridarti le dolci prezze del patrio tuo.